solo bene se ne va. E sogni sulla menta moglie resta ma. E non, vabbè, mi piace. Fa un po' cagare, questa qua fa un po' cagare. Non parliamo più, non ci vedremo più. E che carino! E questa è la sceneggiata, capito? È sotto sola. Chiedo asilo. Ma facciamoci un bagno in piscina. Gido, basta non spingere, no? Allora, qui c'è la tanica. La tanica di benzina l'hai portata, no? No, io ho portato i palloncini. Dovevamo fare i gavettoni di benzina. Ma tu hai detto che porta la benzina, io portavo i palloncini. Ma con chi stai parlando? No. Come gavettoni di benzina? Qui devo fare... Ma il salto di riso! Tu il salto di riso dopo? Sì. Perché se tu continui così, no. Allora, Ioris, sì. La tanica di benzina, non i palloncini, quella è il gavettone, bisogna farli fuori. Ma sentite, bambino Alberto, cos'è che state facendo? Cos'è quella roba ho lì? Ho sentito la parola benzina. No, tanica. Anche tanica. Tanica di benzina, allora, sei stato no. Tu, io ho detto palloncini. Ma voglio dire. Puoi parlare, loro parlano con allora, me. Oggi è l'ultimo giorno d'asilo, vediamo di non fare subito. Tra l'altro oggi è l'ultimo giorno dell'asilo e anche venerdì. Sì. Quindi, non so, e quindi... Non vorrei rischiare che sia proprio l'ultimo giorno dell'asilo in assoluto. Questo caldo qui in mezzo al cortile, la tanica di benzina. Organizzato la festa. Ho capito. È l'ultimo giorno e facciamo un festone. Tra 10 minuti facciamo un casino. Ah, come? Questo, con l'insalata di riso. Sì. No, il riso è una. È un'esigenza di Gino. Ma Gino, dov'è Gino? Ma di chi parlano? Ma non ho capito. Sono allucinati questo caldo, il colpo di calore. Il colpo di calore, poi accendono pure il farò. Vedere Gildo anche dove allora, non c'è. Vuoi tenere la bocca chiusa? Un attimo. No. Senti, ma quindi, cioè, come fossimo in spiaggia. Il falò. Bravo, hai capito? Ho capito. Sì, ma qui ci sono 8000 gradi. Le cicale, fa un caldo pazzesco, aspettiamo stasera, no? Io ho detto, lasci stare il falò. Sì, anche stasera. Ma no, di sera, noi di sera dobbiamo stare a casa, dobbiamo farlo per forza il pomeriggio, non è che saltiamo la festa solo perché c'è un po' di caldo. Sì, ma la benzina fa odore, facciamo i gavettoni ma di benzina. Odore, no, ma io vorrei farvi capire che oggi è venerdì. Yeah, yeah. Vedi? Ioris ci sta dentro. Ioris. Senti come batte. È l'unico Ioris. Oh, yeah. Per forza c'è l'istinto. È l'ultimo giorno dell'asilo. Alright. Sulle mani tutti insieme che è finita la scuola. Ma magari sulle adesso arriva mani. Anche qualcuno con la chitarra a rompere le balle. No, sai quello non è previsto. No, Allora, siamo pronti. No, ma come, no? No, questo è lo scout, l'ha chiamato capo... Alberto. Porco boh, ma che bel falò, Alberto, sei migliorato. Un po' che sì, non ci vediamo. Un caldo pazzesco. Ma soffia, soffia bene, sulle braccia, così. Ma sì, no, che soffia, è una festa di inviti, quindi... l'hai invitato tu, il capo scout, sei tu che fai lo scout. È il tuo maestro scout, esatto. So, Ioris, tu fai lo scout. Ma faccio venire pure a mio fratello, allora. No, vabbè, quello di 39 anni. Scusa, dobbiamo anche noleggiare l'istituto di vigilanza, ma no. Allora qui il capo scout, facciamolo pazzesco, dai, andiamo a casa. Diamogli un sesso, facciamo sto falò, quindi facciamo la canzone dell'estate. Volete una bella canzoncina per quest'estate, così la muoviamo bene, eh? Dai, allora. Bella, e ci mancava pure questo. Dai, Ioris, poi io e te facciamo un bel venerdì. Un'estate al mare. Dai, grazie. Voglia di remare, fare il bagno al lago, per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni, un'estate al mare. Voglia di remare, fare il bagno al lago, per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Ma no, cosa avete scuro. Voi due tutti stretti, attaccati, appiccicati? Fa un caldo bestiale. Non possiamo andare all'ombra e sentire un ma po' scusa, di tecno. Abbiamo l'aria condizionata nella palestra. Potevamo fare la festa lì, ma non ho capito. Prego, un bel camparino e... Ma sì, ma il camparino. Io preferisco il pastiso. Ma poi vieni con noi, vai, Sì, quindi andiamo in palestra. C'è l'aria condizionata. Ancora facciamo una bella festa e facciamo una grande giusto. Serata. Ma in palestra, no? Ma sì, ma no. Ma capo, ma qui fa un caldo pazzesco. Ma l'aperitivo... Ci beviamo pure un aperitivo. Ma no, basta, stavamo alla palestra. Un pastis quando fa caldo. Ma sì, andiamo tutti in palestra. Andiamo tutti io, Gildo, te e la maestra. Vabbè. qui però vengo anch'io d'accordo a cantare canzoni, posso ecco, venire ecco. No? Allora, secondo me non siamo tanto d'accordo sulla festa, cioè io e Ioris vogliamo il venerdì. Sì, ho capito, ma qua fa caldo. Quell'altro vuole l'insalata di riso, sì, ma che però fa caldo con questo falò, cioè sono 80 gradi, quindi io dicevo di andare al chiuso, ma questo, un posto qui un po' più fresco. A me sembra che qua ci sia un caldo tropicale. Quindi? Dal mare. Vabbè. Sì, ma mica è notte. Allora. Che poi è bella perché sono gli stessi accordi di prima, Vabbè, chiaro, appunto, ce lo dici pure. Mare, mare, mare, voglio annegare. Ma che voglio annegare? No, vabbè. Ma questa è una festa, mica. Portami un funerale. Vabbè, pure il naufragio, capito? Basta che ma chi ha invitato? Allora, sentito là! Via da queste sponde. Sì, però fa sembrare questa canzone veramente una canzone funebre. Lontano sulle onde. A me basta che si lega una pietra al collo e ti butto giù dalla montagna, quelle sulle onde. Sì, vabbè. Non c'è niente da mangiare, sto qui fa ste canzoni. Infatti, ma avete portato le capo scout, capo scout. Lei, capo scout, lei che è esperto di queste cose, ma da dico, mangiare, cioè la grigliata quando si fa. Adesso facciamo due rosticini lì, ecco, dove sono? Scaviamo una bella buca. Insalata di riso, ci vuole anche l'insalata di riso. Sì, allora, fai quelli due arancini. Allora, non arancini, arrosticini. Arrosticini, cioè, facciamo la stuccia del troppo. Non sai che qualcuno c'ha anche un po' di vino bianco. Fare un Garibaldi, un cardinale. Ecco, Un bel cardinale. Alberto, un bel cardinale. Per tutti. Ma che cardinale? Sì. Allora, cardinale, gli ingredienti del cardinale. Avanti, dai. Allora, dai, Campari. La tunica. Sì, la tonaca, l'ho battuta rossa e lui fa. Ma è un cocktail, non è un prete. Allora, che cos'è il cocktail? Qui da bere niente, capo scout, con la chitarra, il falò con la benzina. Cardinale, poi, tra l'altro, non so sta roba, ma scusate, ma voi siete sicuri che sta roba si possa fare? Che adesso arriva Suor Dentona, il bidello. Allora, prima di in primis, Suor Dentona e il bidello sono andati via insieme. Come? Sono andati. Che caporella ne sei? Come caporella? Ma qui voglio dire. Senti, io mi sono stufata. Quindi, tu aspetta un attimo, che io mi sono stufato perché. E allora, tra te, il prete, l'insalata di riso. Io ma sai che c'è ragione? Sì, ma io me ne vado. Ragione. Poi ma me sai, io me ne vado al pacchetto. Ma no, adesso. Ma sai cosa ti dico? Sì. No, no, ma che c'è? Proprio una bella festa. E allora pure. Beh, doveva essere. Io ora sei andato, Vabbè, forse non tra bambini litigate sempre adesso. Io e Ioris potremmo andare a bere qualcosa. Tu e Ioris? Ioris sono bambino, ma sono lì bene analcolico. Ma c'è anche Gido, sì, ma adesso guardate che non so, io sono un po' preoccupato lì. Perché qui il falò potrebbe anche degenerare. Ma no, c'è quella... Come no? Ci sono 5 litri di benzina lì. Tra l'altro chi li ha pagati? Quelli, no, per adesso abbiamo. Ci abbiamo preso in usuros. Comodactus. È una roba. È una roba lì. Ho capito. È un modo di avere delle cose. Usus accomodactus. Comodactum. Comodactum. Allora facciamo, accendiamolo. Ma no, ma guarda che. Insomma, capito? Gido, passa la miccia lì. Chi è che l'accendino? Però io forse. L'accendino ce l'avete? Tu ce l'accendino. Ma senti, Kappa, qui arriva qualcuno. Qui ci arrestano tutti. Qui l'accendino, come al solito, ha rubato qualcuno. Ecco, cioè, bambino Alberto, hai anche l'accendino. Dai, su, dai, alla fine facciamo. Dai, siamo qua, Drago. Siamo qua, facciamo. Capito, però. Dai, allora accendi lì, accendi. Ecco, visto, io lo sapevo. Chi è? Il bidello, io lo sapevo. È lui, è il bambino Alberto. Quello che è la festa, no? Quello è la bandierina, guarda, ma il poco, ma sei il bandierino. Chi? Ma questo è il falò. Ma stai là nel numero, vieni qua. Cos'è se ne andiamo un numero? Ha ragione. Io non so che cosa stia dicendo, ma ha ragione. Sì, anche io. Se mi fa paura. Ecco, chiama i carabinieri. Questo l'ho capito. Io lo sapevo che finivamo dentro. Ma cosa? Ma qui siamo in un luogo privato, è pubblico. Allora mi lascia parlare o no? Vabbè, ma qui la festa. Gli arrosticini. È l'ultimo giorno di asilo. Gli arrosticini. E praticamente no. Facciamo quello che vogliamo. Prendi una roba lì. Gli arrosticini, non è che magari nel freezer. Ma che vuoi lui? Ma prendi una roba lì che me l'ho qua. Ma prendi no. Vedi che però mi piace la musica, questa sì, ragazzi, è venerdì, cioè, sarà anche l'ultimo giorno di scuola ed è anche l'ultimo giorno di Chiedo Asilo. Ci risentiamo, ci salutiamo, tutti che qui veramente sta prendendo fuoco tutto. Salutiamo Alberto Caserini, salutiamo Guido Bertolotti, salutiamo Salvatore Iorio, Nicolò Bodini, salutiamo anche Laura Faggin, salutiamo anche Chiara Mignemi, anche Carmelo Labricella e anche Pietro Lacorte, e poi chi salutiamo? Maria Grazia Gusmano. No, no, scusa un attimo, non è che possiamo chiudere la puntata, è venerdì, è l'ultima puntata, Maria Grazia Gusmano, ma chi è? Ma come, chi è? Ma tutte le volte, capo. Ma Gino! Andate in clap!